fossi io, viene lento di vagar, una musica brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Abbiamo anche scavallato il primo giorno di primavera con triste dissolutezza. Oggi iniziamo a capire quale sarà l'influsso della intorpidente stagione nei nostri comportamenti. Io questa mattina ne suggerisco uno. Già l'anno scorso mi soffermai sulla necessità di guardare con occhio diverso ai nostri possessi materiali, ma non intendo le case, non intendo i beni al sole, intendo quel ciarpame che normalmente occupa alcuni interstizi vitali della nostra abitazione. Per me, se potessi scegliere, se potessi avere la casa ideale, se potessi vivere senza dover condividere i miei usi quotidiani con altre persone, vorrei una perfetta casa zen, completamente vuota, spoglia, con soltanto delle stuoie per terra, con il minimo delle suppellettili indispensabili. Non vorrei soprammobili, non vorrei orpelli, forse non vorrei nemmeno quadri le pareti. Mi piacciono le pareti spoglie. Mi piace vedere e immaginare e allucinare immagini alle mie pareti. Ma naturalmente le case questo non sono. Sono reduce da una casa di fanciullezza, adolescenza, che era piena di cose. Ho vissuto in una casa in affitto che era piena di cose dell'affittuario di cui non potevo liberarmi. Spesso sono andato in vacanza con la famiglia in alcune case che hanno pieni di oggetti inutili. Chissà perché le seconde case che si affittano al mare, che si affittano in montagna, che si affittano in campagna, diventano il luogo d'accumulo delle scelleratezze di un'esistenza. Quindi tutte le bomboniere, quindi tutti i piattini con le abbazie, con le chiese, con i santuari, con i luoghi di pellegrinaggio, vengono tutti accumulati nella seconda casa. Poi in alcune latitudini del nostro paese, che non tenderò qui a sottolineare per semplice compassione, esiste anche la possibilità di mettere fiori finti. Case piene di orrendi vasetti pieni di fiori finti. Chissà perché il fiore finto dovrebbe dare allegria, dovrebbe dare segno di vivacità, quando in realtà è qualcosa che indica trascuratezza anche nell'atto di pietà estremo di mettere fiori su una tomba. Le tombe dei morti dimenticati sono piene di fiori di plastica. Il tulipano di plastica, mi ricordo che era uno degli elementi più inquietanti delle mie visite al cimitero quando ero piccolo. Beh, tutto questo probabilmente per alcuni è motivo di orgoglio, è motivo di arredamento sontuoso della propria abitazione. Fa parte colui che questo pensa e questo fa della orrenda genia degli accumulatori. Esistono molte persone che amano accumulare oggetti. Ma soprattutto non si vogliono liberare di alcuni oggetti. Potrebbero essere anche le buste usate, aperte, delle comunicazioni della banca, che si accumulano a strati imponenti in tutti i cassetti, in tutti gli scaffali, in tutti i luoghi, in tutte le mensole. Nessuno li butta via, perché forse bisognerà ancora guardarci, forse bisognerà guardare quell'estratto conto, forse bisognerà guardare quella fluttuazione di tasso di interesse, forse bisognerà guardare quell'inutile comunicazione su una delle tante carte inutili, accumulazione di privilegi e benefici. Le nostre case spesso sono piene di oggetti accumulati, a volte accumulati semplicemente così, seguendo un filo improbabile, una deriva non certa di sensibilità, di desideri, di concupiscenze. Quindi ciò che si trova si mette a casa. Possono essere ciottoli, sassi, pigne, ramoscelli, cose raccolte per strada, oggetti che ci regalano. Oggi nei settimanali e mensili, soprattutto femminili, si possono ricavare dei meravigliosi oggetti d'accumulo che vanno a riempire i cassetti del bagno di sotto. Sono quelle bustine con le cremine, i profumini, gli scrub, quelle meravigliose accenni a lussuriosi medicamenti per il decadere della nostra carne, che noi prendiamo, poi non apriamo mai, li teniamo nel cassetto. Se si apre il cassetto, trabocca di bustine. Qualcuno se ne porta via. Quando viaggia, uno porta via due o tre bustine, così non si porta il flacone della crema o il flacone del bagno schiuma. Quando le apre, una delusione: c'è sempre qualcos'altro rispetto a quello che uno vorrebbe. Uno vorrebbe farsi la doccia, apre la bustina e la trova piena di sabbia, che è una sorta di livellatore delle zone erogene, magari, che non serve assolutamente a nulla. Beh, questa mattina vorrei una dichiarazione di intenti, se possibile certa e sincera. Cosa voi accumulate? Quali sono gli oggetti del vostro accumulo? Di cosa vorreste liberarvi ma non riuscite a liberarvi? O, ancora peggio, vivete assieme a un accumulatore o accumulatrice? Avete mai subito, patito, sofferto e soffocato il vostro desiderio di libertà e di leggerezza per colpa della sindrome dell'accumulo? 800240024. Mi chiamo Enrico Mantoni, abito Forlì in Popoli e dal 1987 ho iniziato a collezionare macchine per caffè espresso da bar. E la passione nasce ad un mercatino, per puro caso ho acquistato la prima macchina e da quel giorno ho cominciato a appassionarmi, e direi anche un grande amore che continua da oltre 20 anni, cercando le macchine per il caffè in tutti gli angoli del mondo. Poi in questi ultimi anni ho scoperto eBay, che mi ha aiutato tantissimo ad ampliare la mia collezione. L'accumulatore compulsivo oggi ha uno strumento senz'altro molto pericoloso a sua disposizione, eBay. eBay è il paradiso, è il luogo di autoerotismo più dissoluto per l'accumulatore compulsivo. Uno scorre eBay, vede che per pochi soldi, veramente per cifre irrisorie, può farsi arrivare in comodi e discreti pacchetti a casa qualunque oggetto. Quindi qualunque supporto onirico della nostra concupiscenza di accumulatori può essere portato a casa nostra, ma veramente per un pugno di euro si può avere una meravigliosa limetta multipla per i mignoli, oppure si possono avere delle fantastiche appunto caffettiere d'epoca, o si possono avere oggetti in bachelite, si possono avere antiche riviste, si possono avere quei giocattoli da nostra fanciullezza che pensavamo scomparsi. Farle arrivare un attimo è un istante, ma poi occupano dello spazio fisico, occupano dello spazio vitale, non tanto dell'accumulatore. L'accumulatore in realtà è una sorta di sindrome, ma io lo dico radicalizzando naturalmente, la mia non è assolutamente una diagnosi certa, ma una sindrome di suicidio lento. In realtà lui vuole essere strangolato, vuole essere soffocato, in realtà lui vuole morire dall'abbraccio letale degli oggetti che accumula. Quindi non fa altro che sottrarre spazio al proprio bisogno vitale di respirare, di muoversi, a un gusto della costrizione. È come se ogni giorno lui aggiungesse un anello alla catena che dovrebbe immobilizzarlo fino a soffocarlo. Ciao, come promesso, ecco qui il video della mia collezione. Ecco qui in camera mia ho lo scaffalino dedicato tutto a Tezuka. Qui, sempre in camera mia, abbiamo nello scaffale di sopra il bellissimo The Calling, in 3 volumi. E nel corridoio, nella libreria, ho colonizzato, sopra i libri dell'università, ho messo i manga, soprattutto ci sono i manhwa editi dalla Planeta. E c'è anche il bellissimo Mouse, che non è un manga, ma è stupendo, meraviglioso, incredibile. Dal 97 ho cominciato parecchio a comprare io da sola. Sì, a 11 anni. Sicuramente Sailor Moon da prima, perché Sailor Moon è stato l'unico fumetto che mi ha comprato qualcun altro. Poi neanche mia madre, perché mia madre ha sempre odiato i fumetti e continuerà ad odiarli, penso, per sempre. Però me lo comprava una mia zia. Naturalmente quando si coltivano delle passioni è molto difficile resistere alla tentazione di accumulare oggetti, supporti concreti, simulacri che ricordino la propria passione. Visto che oggi fortunatamente lo considero un beneficio per l'umanità, la passione per i fumetti, per i cartoni animati, per i videogame è tracimata dall'età infantile fino all'età adulta e fino all'età estrema. È naturale che esista tutto un merchandising, tutto un mercato dell'indotto che fa sì che ciò con cui si gioca attraverso la materia incorporea dei pixel possa essere anche concretamente toccato, accarezzato, sottoposto al vilipendio dei nostri sensi attraverso piccoli pupazzi di plastica costruibili o tutto tondri. Molte volte è difficile trovare costruiti e immaginate le nostre latitudini, ma eBay anche in questo caso supporta il nostro desiderio, quindi ci arrivano a casa. Avete mai visto le collezioni delle sorpresine di quegli ovetti di cioccolata che andavano tanto qualche tempo fa? Una volta era il passatempo, ricordo quando io facevo un lavoro molto più stabile e molto più tetro. Era il passatempo di tanti impiegati e impiegate delle aziende pubbliche. Compravano l'ovettino al bar aziendale, prendevano una sorpresina e con queste sorpresine riempivano tutti gli spazi liberi e del loro abitacolo da lavoro, liberi, lasciati liberi naturalmente, dalle cornicette con i ritratti dei figli e dai ricordini delle loro vacanze e dai tanti pass delle conferenze stampa. Se andate alla redazione di un giornale, vedrete subito il giornalista accumulatore. È quello che riempie la parete di la propria scrivania con tutti i passi di tutte le conferenze stampa a cui è andato. Più aumenta la sua anzianità di servizio, più la parete si riempie. Molte volte sono futili pass per la sagra della porchetta, per il festival del pecorino stagionato, ma non importa. L'importante è avere tanti attestati di esistenza, concreti, reali, da poter schiaffare in faccia al mondo e dire: io sono esistito. In ognuno di questi pezzetti di cellophane e nastrino che io ho accumulato, esiste un brandello della mia vita vissuta e non puoi dimenticartelo. Possiede migliaia di libri e videocassette, riviste, DVD, fotografie, tutto quello che riguarda il grande scrittore belga, padre del commissario Maigret. Da quando è che ha cominciato a collezionare? Ho cominciato dall'età di 14 anni, finite le scuole. Cos'è la prima cosa che ha preso di Simenon? Pietro il Lettone. Quindi un Maigret, classico, un classico Maigret. È il primo libro, il primo Maigret, trovai usato su una bancarella. Ho tutte le prime edizioni di Simenon meno 7, cioè ne ho esattamente 421. E adesso cerca disperatamente... No, 411, perché il totale sono 418. Senta, cerca disperatamente queste 6... Luca, buongiorno. Buongiorno a lei. Ecco, il primo accumulatore confesso che abbiamo questa mattina. Sì, sì, sono io. Accumulatore confesso, io non riesco praticamente a buttare le cose, le tengo sempre con me, parliamo da pezzetti di tronchi di carta, da tronchi di legno, pezzi di carta, oppure come diceva lei appunto dei nastrini, delle cose, e poi alla fine vanno a finire tutti in garage, no? Un paio di garage enormi, pieni di cose, magari a volte oggetti inutili, però purtroppo non riesco a disfarmene. Stabiliamo, mi scusi Luca, una priorità di oggetti, l'ha detto piccoli tronchi di legno, quindi la immagino farà delle passeggiate in campagna, in montagna e porta a casa tronchi e radici. Questo lo... Sì, ma insieme alla mia compagna, che poi in realtà spesso prendiamo le stesse cose, magari che non so, i sassi particolari, quelli del mare, no? Di fare la passeggiata sul mare, quei sassi, diciamo, un po' scolpiti, diciamo, dai segni del mare. Uno se li porta a casa per farne cosa? Dei soprammobili? Per farne dei soprammobili, ma non fanno dei soprammobili. Pensavo fuori dal balcone di casa ho 4-5 ceste di questi sassi messi lì, che prima o poi dovrebbero andare in una teca, ma ormai sono 8-10 anni che sto a casa e non ci vanno, e stanno fuori. Però mi va bene così, perché in fondo, cioè, quelli, ogni volta che li guardo e mi piace ricordare in chi, altri oggetti che accumulate assieme in questo gioco di coppia. Beh, ho fatto delle grandi collezioni, per esempio di automobili quando ero piccolino, e adesso stanno tutte in garage. Però, ecco, diciamo, giocattoli della fanciullezza che rimangono con me. Oddio, fanciullezza non tanto, perché diciamo fino a 4-5 anni fa compravo queste macchinine, poi a un certo punto mi sono reso conto che forse spendevo troppo soldi per quello e non per altro. Insomma. Lei ha figli? Sì, ho un figlio di 3 anni che non vede l'ora di scartare queste. Ecco, guardi, le dico, delle collezioni futili dei genitori, molte volte, grazie a Dio, i figli svolgono una funzione, è un po' come i lombrichi che scavano la terra. Vedrai che appena affiderà le macchinine a suo figlio, sì, potrebbe già farlo adesso, diventeranno un cumulo di macerie nel giro di pochissimi mesi, quindi anche si tranquillizzi. È la mia grande paura. No, ma sarà così senz'altro, una sorta di raccolta differenziata, giusta anche in fondo. Certo, sì. Quindi suo figlio sarà lui a eliminare alcuni oggetti e anche i sassi che lei ha nel balcone, appena il pargoletto sarà in grado di capire quanto è divertente tirarli in testa quelli che stanno sotto, le causerà senz'altro dei piaceri che lei non può nemmeno valutare. Quindi porti pazienza. Simonetta. Sì, buongiorno Nicoletti. Lei cosa accumula? Sì, dunque le spiego, io sono sempre d'accordo con lei, infatti seguo la sua questo tradizione. Questo è un rischio per me e per lei, dica qualcosa di disaccordo. No, è quello che volevo dire appunto, che non sono d'accordo, lei all'inizio di trasmissione ha parlato di cianfrusaglie, secondo me sono ricordi, certo un sasso, un fiore, lo reputo anch'io una cianfrusaglia, però vede lettere, fotografie, cioè fanno parte della mia vita, sono ricordi, e mi creda, io ogni tanto li vado a riguardare, soprattutto se una persona è morta, e mi fanno un piacere immenso. Sì, ma è come arredarsi la tomba ancora stando in vita, lo capisco, anch'io sono molto attaccato. No, le spiego, sa che cosa ho fatto? Siccome mi rendo conto che poi quello che per me è un ricordo, per chi verrà dopo di me è una seccatura e roba del genere, io adesso, siccome come azione sto anche traslocando, è l'occasione buona per disfarsi delle cianfrusaglie, come dice lei. Io ho preparato degli scatoloni sulle lettere, cartoline, fotografie, non so, ricordi di viaggio, ho scritto buttare, per cui loro tranquillamente, gliel'ho anche detto, dopo la mia morte possono prendere, buttar via, bruciare, fare quello che vogliono. Beh, allegra questa sua attività di bricolage postumo. No, sì, perché giustamente i miei fratelli... No, però fa bene, lo sa, dunque una volta, l'unica volta che ci capitò una fortuna nella vita, mia moglie sì. ereditò una casa di una vecchia zia. Sì. Passammo circa 3 settimane io e lei a vuotare questa casa. Mi ricordo c'erano le stanze che si apriva la porta e gli oggetti riempivano fino al livello dello stipide. E fu una cosa meravigliosa perché scavare via via le stratificazioni nella vita di questa signora fu meraviglioso. Ricordo ancora quell'odore di saponette corrotte. Prendeva tutte le saponette degli alberghi, viaggiava molto. Ma via via negli anni... Ma lo dice ironicamente o lo dice... No, sto raccontando uno stralcio alla mia vita. Queste saponette che negli anni, una saponetta presa negli anni 50 durante una crociera, si corrompe anche la materia con cui è fatto. Oppure noi avevamo... effluvi, essenze di saponi che non avevamo mai conosciuto nella vita. Il luogo delle bottiglie, ricordo ancora delle bottiglie meravigliose perché ormai avevano 30 anni, dentro c'era una melma, delle bottiglie di liquori scomparsi, il mille fiori cucchi, quello col rametto dentro, me lo ricordavo da bambino ma non pensavo mai di rivedere ancora una bottiglia. Era come scavare nella tomba di un faraone. Io non credo che lei voglia che i suoi successori abbiano la stessa esperienza. No, le spiego, vedi, appunto, è morta mia mamma e anch'io appunto ho dovuto, chiaramente non ho aperto le sue lettere, cioè non ho, però ho trovato delle cose che mi hanno fatto sapere delle cose che non sapevo, dei ricordi, per esempio, non so, per dirlo, ho trovato la laurea di mia mamma e l'ho appesa, non mi vergogno a dirlo, certo non visibilissimo, perché oltretutto è anche bella, nel senso era il re Vittorio Emanuele III, eccetera, eccetera. Per cui, insomma, capisce, io sono stata contentissima di aver fatto uno spoglio di questa roba. A volte si hanno anche... Se hanno... Quando ero bambina. Sì, sì. Non sempre bello però andare a frugare nei ricordi di una persona che non c'è più. Infatti non mi sono permessa assolutamente di aprire le lettere. E invece quella è la prima cosa che avrei fatto, guardi, onestamente. No, vede, invece è proprio vero. E se non le lascio le lettere vuol dire che lascia una traccia al mondo che vuole che siano lette. No, lettere di suoi amici, conoscenti. Magari scopriva delle storie che inimmaginabili e si faceva un quadro completo. Invece, guardi, cercare nei ricordi di una anziana zia Zitella... Si trovano anche cose che a volte danno certi imbarazzi sia dal punto di vista degli scritti che degli oggetti. La saluto, grazie. Buongiorno. Dottor Eugenio Manzato, buongiorno. Buongiorno. Lei addirittura presiede un'associazione di accumulatori, Associazione Piatto del Buon Ricordo. Cosa fate? Esatto. Noi raccogliamo piatti che non sono fine a se stessi, ma derivano da una consumazione di un pasto presso un ristorante. Ma ve li fregate dopo aver mangiato? Come funziona? No. È previsto, c'è una catena di ristoranti che sono affiliati al Buon Ricordo e che nel menù servono una pietanza particolare alla quale è legata un piatto che, se consumato, dà diritto ad avere questa ceramica in omaggio. Ah, un piatto da collezione, con il brand del ristorante, sì. Ecco. Io ne ho oltre 3.000 di questi oggetti. Ma come li tiene? Appesi al muro? Allora, una piccola parte, perché non devono opprimere, una piccola parte, purtroppo solo una piccola parte, perché ho una casa grande, ma non così grande come vorrei, è appesa. Il rimanente... Quindi ha fatto 3.000 cene, immaginiamo. Sa 3.000 piatti. Grosso modo, magari non sono 3.000, perché le ho fatte con mia moglie, le ho fatte con mio figlio, con qualcun altro, e magari ho qualche piatto in più. Quelle valgono perché... meno? Comandi? Valgono meno quelle fatte con i parenti? No? No, nel senso che anziché averne un oggetto ne ho tre. Ah, ecco, uno per a testa, ho capito. Quindi ne danno uno ad ogni commensale, se uno va con la famiglia. Ad ogni commensale che consuma quella pietanza. Poi ne avrà molti anche in scatolati, immagino, perché non tutti potranno prendere. Allora, a parte i pochi, centinaio, 200 appesi. I più pregiati saranno. Tutto il resto è in scatole, registrato su un computer, per cui io riesco a sapere se cerco un certo oggetto che è nella scatola 22 e quindi prendo quella scatola e dentro. Ma il motivo di questa ricerca quale scatola potrebbe essere? Il movente di questa ricerca nell'archivio dei piatti? Ah, semplice, voglio rivedere il piatto di quando c'è stato il, non so, un incontro ufficiale con degli amici, ecco, quando è stato, guardo, cerco, ovviamente col puntatore del computer, trovo dove si trova e lo riestrago, ecco qua, quella sera là. Quindi ho capito, dunque lei si sta facendo un database della sua esistenza, dei momenti epici della sua esistenza. Il piatto è il supporto concreto, è il suscitatore del ricordo. Io amo dire. Senta, facciamo una cosa, guardi, dottor Manzato, siccome è interessante quello che ci stiamo dicendo e mi fanno segno che devo dare la linea alle informazioni della borsa, può stare con noi qualche minuto? La risentiamo fra un istante e continuiamo questo approfondimento. Melog 2.0. La nostra collezione di trucchi. Qui abbiamo tutti i miei pennelli. Questi sono la fondotinta, questo è della Elf. E questi sono i miei pennelli da ombretto. Questi sono della Elf. E questi mi sono usciti in un set che ho acquistato su eBay. Poi questa è la mia colonna di Cinecittà con tutti i miei ombretti in polvere e i miei glitter. Primo cassetto, la base. E ho questo è sempre preso da YouTube, una collezionatrice di trucchi. Questa ragazza, oltre a collezionarli, si produce in lezioni di maquillage che fa per il bene del mondo, ma allo stesso tempo per dare un senso alla sua collezione. Circondata da ombretti, da polverine, da matite, da rossetti, da creme, da tutto ciò dovrebbe renderla più bella, ma in realtà anche lei sta accumulando i farmaci della propria mummificazione e lo fa mummificandosi in forma digitale e mettendo questo suo eterno e lancinante e ininterrotto cerimoniale di dipartita in rete. Ci eravamo interrotti parlando della sindrome dell'accumulo o perlomeno delle collezioni esasperate che vanno oltre il semplice avere degli oggetti, ma è una catena che porterà al riempimento totale del nostro spazio vitale. Forse questo non è il caso del dottor Eugenio Manzato, che è presidente dell'associazione Piatto del Buon Ricordo. Ci avevamo interrotti con lei, dottor sì. Manzato. Lei sta dicendo che ogni momento fatale e importante della sua vita ha un piatto che glielo ricordi. I piatti sono inseriti in un database, quindi per lei è sufficiente cercare la domanda di quel giorno, prende il piatto in mano e come per miracolo rivede e rivive quell'oggetto, rivive quel momento. Rivedere quel momento. Ecco, lei ha detto, per esempio, avuto un pranzo con un fidanzamento di suo figlio, ad esempio. Se lei prende quel piatto, rivede suo figlio, la fidanzata, quel momento felice. Certo, io dico che collezionare piatti per me, per noi collezionisti del gruppo, noi siamo in 700 circa, è collezionare emozioni, non è collezionare oggetti. Io faccio anche la collezione di francobolli, è tutta un'altra cosa. Sì, perché sono oggetti caricati di un momento emozionante. Ora le faccio un esempio, non se la prenda. Lei i momenti emozionanti importanti della sua vita li passa a tavola, quindi logicamente i momenti conviviali sono momenti migliori. Una persona compulsiva su altri livelli collezionerebbe, che ne so, giarrettiere femminili o collezionerebbe boxer maschili a seconda delle inclinazioni. I momenti emozionanti hanno dei loro particolari supporti. Per lei il piatto è uno di questi supporti. Ciao a tutti, sono Alvaro Light. Oggi volevo presentarvi un po' così a grandi linee la mia collezione di manga. Non è una grandissima collezione, però qualcosa ha anche lei di carino. Spero di riuscire a fare in una parte sola, cercherò di non perdermi via troppo con i vari volumi, e anche perché sono un centinaio, non sono tantissimi, però o comunque il suo tempo lo richiedono. E partiamo dall'alto. Allora, qui c'è un'action figure di L, veramente bella, un regalo che mi è stato fatto per il compleanno di un paio di anni fa, veramente veramente bella. Poi qua una serie di Gashapon. 80024, 0024 questa mattina, confessate, fate pubblica dichiarazione di ciò che voi collezionate. A cosa voi regalate lo spazio vitale della vostra abitazione? A cosa voi regalate lo spazio delle vostre emozioni passate? Quale supporto, quale trappola alla morte voi avete scelto per appoggiarci il ricordo, i momenti belli, brutti o intensi o epici della vostra vita? Per il Signore abbiamo sentito sono dei piatti, per altri sono dei fumetti, per altri sono dei meravigliosi ricordi di luoghi visitati, per la signora Alberta in realtà sono cartucce. Alberta, buongiorno. Buongiorno. Colleziona munizioni. Senta, io avevo i fucili. Due fucili, uno bellissimo fra l'altro che era stato comprato in Austria da mio marito. Fucili da caccia? Sì, da caccia. E anche a me non è che sia una collezione, però tenevo quei fucili, prima cosa, ben al sicuro, sempre in casa, diciamo. E un bel giorno, per ricordo di mio marito, perché tanti anni... Era appassionato di fucili suo marito, di caccia? Lui sì, io no, io lo seguivo e perciò anche per me quei fucili erano un ricordo, erano di giorni passati magari in campagna. Cos'erano, delle doppiette, cos'erano? Una, sì, delle doppiette, ma una aveva anche un certo valore perché era tutta istoriata, tutta belle, c'erano delle bellissime figure, diciamo che quindi era anche un oggetto un po' artistico, ecco, oltretutto. E lei, poi, diciamo, curava anche la manutenzione di questi fucili, cioè ogni tanto li oliava, li smontava, sì, li puliva. Sì, c'ho tutti gli attrezzi perché sapevo come faceva lui, così. E come faceva lei? Mi pareva di tenerlo per mano, perché diciamo tenendo in mano i suoi fucili era, come tenesse era in mano una cosa per me molto cara. E poi un bel giorno, tre anni fa così, la polizia, qui in questo paese erano successi dei fatti brutti con pistole, fucili. Sparatorie, diciamo. E allora loro avevano la denuncia perché sapevano dove erano questi fucili. Ha detto: signora, lei non li può tenere più perché questa è una casa di campagna, una grande casa, può venire un ladro, prende i fucili, fa una sparatoria. Oppure Lei poteva renderli inerti, poteva semplicemente renderli inerti e tenere il ricordo, lei poteva tenerli in mano lo stesso. No, io li tenevo smontati. No, diciamo, se uno vuole trasformare un'arma in un'arma da collezione senza che più abbia il valore di arma, ho capito. Basta saldare il percussore, ci sono dei sistemi che il fucile è inerte, non spara più, però lei ce l'ha sempre. Ma pensi, ho lottato tanto anche con loro, ma per questo, poi sono andata anche da un avvocato, dice: signora, guardi, se loro le fanno causa, lì le cause non seguono l'iter. Io non credo, guardi, onestamente, normale, signora, adesso non voglio entrare in merito, però parlando di collezione, che nessuno potesse, ecco, impedirle, insomma, di tenere in casa armi denunciate, se erano un ricordo per lei, ma come ultima ratio, lei poteva proporre di trasformare queste armi in armi inerti, quindi in armi da pura collezione che non sparano più, c'è un sistema per farlo e poteva tenerseli tranquillamente. Mi dispiace che le hanno tolto i fucili. Cosa le è rimasto adesso? Mi sono rimaste le cartucce e non so dove buttarle. Quante ne ha? Ho paura magari quante se, ne se ha, le signora? Butto in un posto sbagliato. Beh sì, fanno il botto. Ma che cartucce sono, da caccia? Da caccia. Sono dei pacchi di cartucce da caccia. E quelle non gliele hanno prese, che sono la cosa più pericolosa. Che io pure, perché ho dei nipotini che alle volte vengono, se le trovano, giocano, io dico chissà dove, poi non le posso buttare in un cassonetto. No, beh no. Sì, non c'è la raccolta differenziata delle cartucce da sparo, non ci sta. Non lo so, se ci sono. Ma lei potrebbe darle a un cacciatore, ma anche quello comunque è materiale che dovrebbe essere denunciato, immagino. Però è un materiale, diciamo. Ma quante ne ha? Quanti? 20 anni e più. Quante casse di cartucce c'ha a casa? No, casse no, sono scatole, sono 5-6 scatole. Ah, beh, ma è una cosa piccola così. No, non è una cosa tanto grossa, non è che posso fare. Ma lei fare telefoni una, a un cacciatore. Una Santa Barbara. Telefoni a un cacciatore e gliele regali, se ne tenga soltanto una per ricordo, magari. No, la polizia non le ha volute, ha detto le disfi. E dopo, dico, disfandole pure, il piombo fa male a buttarlo nei terreni. Sì, dovrebbe aprirle, beh sì, però potrebbe fonderlo il piombo. Ma abbastanza per disfarle, ci vuole anche forza alle mani. Ma scusi, sono cartucce in cartone da caccia o sono proiettili? No, no, sono cartucce. Cartucce, vabbè, allora basta togliere il tappo sopra, uno tira fuori il piombo, c'è un tappettino. Lo so, il piombo poi dove lo butti? Lo mette in un piccolo pentolino, lo fonde tutto, ne fa un artistico portacenere. Si fonde subito sul fornello del gas. Però tolga la cartuccia prima, sennò scoppia. Allora lei toglie il tappettino, leva tutto il piombo. Ma comunque la cosa più bella. Poi c'è un affare di feltro che è chiuso, togli anche quello. Poi dentro sono delle cosine, quella è la polvere. Quella la mette tutta in un sacchettino, poi un giorno fa un falò, ce la butta dentro e sta attenta. Beh, insomma, faccia quello che vuole. Auguri, signora. Arrivederci. Grazie. Alda. Buongiorno. Scusi, mi ero soffermato nella collezione di cartucce. Già vedevo questa signora saltare. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Lei cosa accumula? Allora, io ho 13 anni e abitavo in Sicilia. Tramite delle persone vecchiette con cui andavo sempre, anziane, che adesso avrebbero 150 anni, avevano delle cartoline, diciamo tutta Italia avevano. Bene. E niente, le ho prese e mi sono ritrovata l'Italia antichissima, addirittura Milano dove c'era la balilla, una macchina raramente, così. Vabbè, c'ho tutta l'Italia in cartolina, ad acquarello, fotografie. E poi? Da lì è iniziato tutto un mio cammino, cioè dire, io raccolgo di tutto, ma tutto quello che può riguardare la casa, cioè dire, io tutta la raccolta di pentole in alluminio antiche, con tutti i cosi più particolari in alluminio, sì. Persino dove mettevano i vermini per andare a prendere, adesso sono qui in Piemonte, le rane, cioè diciamo che ho tutto, trovo tutto di tutti. Le pentole a chiappa rane, poi padelle antiche vedo. Poi comunque padelle in senso di oggetti sanitari o di oggetti da cucina sempre? No, oggetti da cucina. Alla cucina. Tutto quello, per esempio, della casa, cosa ho trovato? Ho trovato tutto l'arredamento di una casa che potrebbe essere antico, la lavamani, il vaso da notte. C'è comunque il presidio sanitario nella sua collezione, anche Pitali collezione. E poi i bauli mettiamo. Io ma scusa, è una casa enorme, lei ha la fortuna di avere un palazzo. Diciamo che ho una casa e io ho i cascinotti dove tengo tutto. Ci sono delle cose incredibili. Io raccolgo tutto. Adesso ultimamente il tombolo l'ho trovato dell'Ottocento a una cavolata, perché l'ho pagato pochissimo, con tutti i fusili antichi dove le donne lavoravano a mano. Vabbè, senta, due alternative lei, signora. Poi lasciamo la linea al traffico. Sì. O fa un museo della civiltà contadina a casa sua e vengono le persone, pagano il biglietto e lei è anche contenta, o se no apre un mercatino e quindi è altrettanto contenta. Ma raccolgo tutte queste e non riesco a capire perché. Perché poi io adesso non raccogliendo più niente perché ho troppe cose, sto cominciando a dipingere tutta una collezione di quadri, ma piccoli, perché ne dipingo talmente tanti. Vabbè, non avrà più tanto spazio. Ne faccio 18x24 e sono dei quadretti piccoli così. E li raccolgo, li metto tutti lì, li appendo, tutte parti sparse di vita. Brava, però devo lasciarla perché devo lasciare la linea, le informazioni del traffico. Melog 2.0. Basta girare la chiave e aprire la porta di questa cantina in un condominio di Ostia a Roma per scoprire che qualcuno a 42 anni con una figlia e un lavoro a tempo pieno trova il tempo e il coraggio di pettinare le bambole. Roberta ha messo su un vero e proprio museo, 15 metri quadrati pieni zeppi di Barbie e fashion dolls di ogni epoca e genere. Buona parte del tempo passo tra fare la spesa, una scarpina di Barbie, un vestitino di Barbie, vengo qua, glielo metto, passo il tempo. Diciamo che il collezionare le Barbie della propria fanciullezza e tenerle anche in età matura è un passatempo di molte persone che conosco. La Barbie, immarcescibile supporto onirico di varie generazioni di donne, dagli anni 50 ad oggi, ha compiuto recentemente la sua bella età, è ancora tale quale più o meno a quelle che producono, a quelle che si vendono seriali, a quelle riprodotte surrettiziamente dai cinesi. Quindi tenere delle Barbie è un po' tenere la storia di un supporto di fanciullezza. Per tante signore questo sarà servito. In realtà c'è anche chi colleziona oggetti trovati nelle case altrui. Diario dell'anima, leggo. Diario dell'anima è un Dario dell'anima ha fondato un sito siriogatto.it in cui vende ciò che lui va accumulando raccogliendo le case altrui. Ho detto qualcosa di sbagliato? Lei come fa a trovare questi oggetti, signor Dario dell'anima? Buongiorno, signor buongiorno. Nicoletti, sì, volevo solo correggere, Dario Dell'Anna. Sì, e mi hanno scritto Dell'Anima, infatti non capivo. Ah, sì, sì, perché il mio cognome a volte si confonde per telefono. Pensi, prima avevo letto Diario Dell'Anima, che mi piaceva bello, era un bel titolo, invece è Dario Dell'Anna, Dell'Anna. Sì, esatto, esatto. E praticamente questi oggetti io li reperisco da privati che appunto mi contattano tramite i mercatini dell'antiquariato che io faccio. Ma lei li regalano oppure lei li fanno comprare? No, no, praticamente c'è chi li regala per una piccola parte, se no c'è gente proprio che li vende perché sono degli oggetti che comunque appartengono magari a parenti o familiari che sono mancati. Quindi con preferenza lei cosa si occupa? Di carte povere, quindi santini, calendarietti? Sì, generalmente cartoline, monete, francobolli, dischi, libri, album di figurine, un po' di tutto. Comunque nello specifico il cartaceo. Ecco, nella sua esperienza, come accade che ci si possa disfare di questi oggetti? Uno eredita una casa, eredita un baule, eredita oggetti che appartengono a parenti scomparsi e non sa che farsene, quindi se ne libera. Esatto, se ne libera soprattutto anche perché diciamo che questi oggetti possono anche magari creare un ingombro, visto che comunque magari questa gente che eredita non è appassionata, quindi dice piuttosto butto via, piuttosto magari vendo a chi è interessato, così almeno racimolo qualcosa. E quindi insomma io poi dopo acquisto questi oggetti, li catalogo e poi li vendo un po' sul web. Lei ha anche tessere politiche di epoche passate? Sì, sì, ho anche tessere di politiche, appunto, anche di confederazioni, associazioni, club, anche dell'epoca del fascismo, o anche antecedenti. Beh, questi diciamo che sono collezioni che si prefigurano anche come una sorta di attività commerciale, sono cose che hanno un loro valore oggettivo. Quando stiamo parlando di collezionare sassi, bastoncini o cartucce del marito morto, qua sono cose che comunque hanno un loro valore di mercato, quindi sì, hanno anche lei gioca sull'accumulo altrui. La sindrome dell'accumulo altrui è per lei un motivo anche di gratificazione professionale. Grazie, certo. Silvia. Silvia, buongiorno. Sì, buongiorno. Lei cosa colleziona? Ho dovuto smettere, in realtà è una collezione che ho fatto per tantissimi anni, da quando avevo 12 anni fino all'età di 25-26 anni, ed era una collezione credo unica al mondo di fazzoletti di carta, scottex, carta igienica. Ma usati o confezionati ancora? No, confezionati. Beh, usati avrebbe avuto un suo valore tragico senz'altro superiore. Non ho avuto il coraggio. Però è stata tentata? No, mai. C'è anche rotoli di carta igienica colleziona lei? No, non rotoli, uno strappo. Ma qual è la differenza? Strappo... No, mi spieghi, perché sa, uno non ci fa molto caso, di solito non sta lo lì molto a guardare. Questa collezione era catalogare le trame, i disegni, i decori, qualcosa che mi permettesse di dire, ecco, questa carta igienica l'ho trovata una volta, non esiste più. Guarda, le posso dire, una volta ho incontrato un signore, c'è un negozio in piazza a Vicenza che fabbrica carta igienica nera, se le interessa. Ecco, questa mi mancava. Sì, adesso non so se serve per... Ho avuto anche la carta igienica con il cruciverba. Ah sì, avevo visto robe del genere, da leggere con le barzellette, sì sì, per impegnarsi. Esatto. Beh, poi i fazzolettini... I fazzoletti, quelli da compleanno, con i disegni più disparati. Quindi se io la ospitassi... per assurdo a casa mia, lei magari dice vado un attimo in bagno e esce con il pezzettino di carta igienica che si porta a casa. Certo, se non ce l'ho nella collezione sicuramente sì. Va bene, interessante. Grazie Silvia. Stefano. Buongiorno Gianluca. Buongiorno. Pronto, Stefano, ecco, sì. Mi senti? Sì, sì. Qual è la sua collezione? Allora, senti, io ho due maniacali, io colleziono da quando ero ragazzo qualcosa che è legato alla televisione dell'epoca, io ho 44 anni, modellini, cioè astronavi soprattutto, delle serie televisive di fantascienza di quell'epoca. Sì, vabbè, questo è un collezionismo pregiato, ci sono molti negozi che hanno questi piccoli oggetti di plastica anni 50, 60. Sì. Ma questi sono proprio... fedeli riproduzioni di astronavi o dei mezzi comunque che hanno fatto parte di quei film, delle serie, che so, da Star Trek. Certo, sì. Sì, sì, lo conservo tutti gelosamente. E vabbè, questa è una collezione. Poi? Sì, è una collezione. Poi una mania che ho, diciamo, dall'adolescenza, quando ho cominciato a viaggiare, a tutt'oggi colleziono chiavi di alberghi, hotel, ostelli, tutti i luoghi che mi hanno ospitato. Cioè, si frega la chiave quando se ne va? Mi frego la chiave, sì. Ma non corrono dietro, non gliela chiedono, no? No, perché solitamente riesco a sgamarla. Ma con tutta la mappina portachiave, volte è una palla di ottone che pesa un chilo. Sì, sì, no, ma c'ho robe pazzesche, c'ho delle cose che non si possono portare dietro. Per fortuna oggi gli alberghi hanno tessere magnetiche che sono molto... Ho anche quelle, ad esempio sulle navi mi sono piegato le tessere magnetiche. Vabbè, in bocca al lupo, anche questo, spero che le ricordi i momenti felici e momenti lussuriosi, quindi come abbiamo già detto il supporto fisico di memorie epiche aiuta a pensare che si è vissuto una vita degna di essere vissuta. Grazie Fabrizio Intonti, grazie a Valerio Rocchetti e la settimana è cominciata, ahimè. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.